scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, tornano gli appuntamenti con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di una cantante e autrice, per tanti anni regina della disco. È nata alla Spezia nel 1967, inizia come vocalista di progetti di dance internazionale come i W, poi inizia a collaborare con il rapper inglese Ice MC, realizzando una serie di grandi successi, da Think About The Way a Rainy Day. Nel 1995 diventa solista con il primo singolo Me and You, primo in Italia e Spagna. Nel 1996 è ancora ai primi posti delle classifiche con Summer is Crazy e Number One. Nel 1997 esce il suo primo album Fan Club, che include il pezzo di successo Ooh La La La. Nel 1998 l'album The Party con il singolo Give Me Love. Nel 1999 il terzo album Happy. Nel 2000 un Greatest Hits e il singolo Ti Amo Ti Amo. Nel 2002 comincia a cantare in italiano, arriva seconda a Sanremo con Dimmi Come, al festival vincerà l'anno dopo con Per Dire Di No e tornerà con Da Grande e insieme a Mario Lavezzi con Biancaneve. Nel frattempo comincia a dedicarsi sempre di più alla famiglia, si sposa e ha due bimbe, Maria Vittoria e Margherita. Nel 2013 ospite fissa della sesta edizione dei Migliori Anni, programma televisivo di Carlo Conti. Nel 2015 esce il nuovo singolo Il mondo non accetta le parole e ora l'album di inediti Tu puoi se vuoi. Lei è Alexia. Ci eravamo trovate con il disco che non era ancora uscito e in attesa del singolo. Era come te l'aspettavi questo ritorno? Ma sì, nel senso che ci sono state delle sorprese, ci sono state delle conferme e è chiaro, è un lavoro molto lungo, è un lavoro che va preso con una grande, con un'infinita pazienza, perché dopo 5 anni di riposo, fra virgolette, risvegliare la memoria del pubblico non è semplice, però devo dire che i feedback sono super positivi, per cui sono molto felice. Com'è assaporare l'emozione di produzione, promozione con 5 anni di maturità in più? Molto differente, perché sicuramente non hai più quel senso di grande aspettativa e di conferma costante che quando ero più ragazzina costellavano in modo anche un po' tormentato i miei giorni, le mie notti, i miei sonni. Quindi si affrontano le cose giorno per giorno, quelle che sono andate molto bene si accolgono con grande gioia, quelle che sono andate meno bene si analizzano e si prendono le doverose distanze là dove magari c'è qualcosa che non ci ha accontentato al 100%, e quindi trovo che in generale la situazione attuale sia migliorata, sia positiva, almeno dal mio punto di vista. Hai parlato di sorprese, cosa ti ha sorpreso? Mi ha sorpreso per esempio alcuni commenti sui social in cui sostenevano che soprattutto il primo singolo, se questo singolo fosse stato, cioè questo è un singolo degno di... E ovviamente hanno citato alcuni grandissimi artisti italiani, quindi per me è stata una grande sorpresa. Uno, perché significa che hanno colto la differenza. Due, perché vuol dire che insomma è un buon prodotto, è una bella cosa. Poi alcuni magari avranno pensato che non era degno di me, ma probabilmente ho dimostrato il contrario. La memoria è sempre corta, in questo paese, in questo sì, mondo, esatto. Soprattutto la memoria è cortissima. È cortissima, brava. La sento crescere, la voglia dentro me, non posso più restare qui seduta a piangere, non è l'estate che tutto può accendere, e non è il vento sulla pelle a farmi fremere. Mica facile, io e te non siamo più qui, ma ben oltre i limiti, mi dai brividi. Sento il mondo che mi scoppia dentro. social. 5 anni fa, ai tempi del tuo ultimo disco, il mondo era completamente diverso sotto questo punto di vista. Che impressione ti ha fatto leggere subito i feedback, subito le reazioni? Perché poi in rete sono tutti super cattivi, cioè è difficile che, a parte i fan, qualcuno ti scriva per dirti qualcosa di bello. La cattiveria è il mood prevalente. Che aspetto, cioè che effetto ti ha fatto questo aspetto? Ma mi ha fatto un effetto da un certo punto di vista buono, perché una volta i feedback li avevamo dalle case discografiche anche un po' filtrati. Se qualcosa non funzionava c'era una specie di lento abbandono e con connessa morte artistica, e invece adesso sai che comunque i commenti positivi o negativi sono i commenti del pubblico, del popolo, della voce sincera. Poi si sa che ogni tanto qualche commento negativo è costruito, ma non importa. Il feedback è immediato, cioè la reazione è vera, è tangibile, quindi l'ho trovata buona come cosa. Anche perché tu il rapporto col pubblico non l'hai perso in questi anni, hai sempre fatto live, adesso ancora io ti seguo, vedo un po' le tue tappe, ancora sei stata in Polonia recentemente, continui a girare tantissimo. E paradossalmente ormai questo è l'aspetto più importante della carriera di un artista, perché se contiamo le vendite dei dischi di chiunque, non ci certo. Si manterrebbe nessuno. Nessuno, no. L'aspetto live è fondamentale, quindi i social ti aiutano a fare una sorta di cronaca, no, della settimana lavorativa. Noi siamo stati recentemente, appunto come hai detto tu, in Polonia, siamo stati a Cracovia, siamo stati a Praga il giorno dopo, ad Ibiza, quindi hai tre differenti situazioni che puoi postare, puoi commentare con i tuoi followers, ed è molto bello, molto interessante, devo dire, soprattutto dimostrare che comunque il lavoro è sempre tanto, fortunatamente non è solo riservato a questo paese, perché comunque il lavoro che ho fatto in passato è stato immenso e ha pagato. Quasi quasi prendo questo libro, poi lo leggo fino in fondo. C'è sempre in me, rinasco mentre scrivo tutto quel che vedo nel mio mondo, e non penso a te, ma provo a districare il mio profondo rido alimentando l'anima, e luce sia con sussultando, poi privandoti dell'aria che c'è in te. Il mondo non accetta le parole, lascia che il silenzio prenda quello che non sento, abbandonando. Adesso quando devi partire, stare via per un po', le tue figlie ormai sono grandi. Ma ormai sono grandi, ormai hanno capito che ci sono dei periodi in cui sono un po' assente, soprattutto l'estate, quando loro raggiungono i posti di villeggiatura, io vado magari un po' meno. Cerco di raggiungerle, però sanno che io non posso fare tutta la vacanza insieme a loro, e soprattutto la grande ci soffre molto. Io sono però fiduciosa nel fatto che poi, quando sarà più grande, apprezzerà il fatto che la propria mamma ha portato avanti, insomma, la propria passione, il proprio mestiere, e cercherò, insomma, di trasmetterle questa cosa. Purtroppo fare la madre e basta, per alcune persone come me, che hanno avuto l'opportunità di avere un talento e di poterlo mettere in gioco, non è abbastanza, è moltissimo, è stato fondamentale per me, però io l'ho provato, ho voluto fare i primi 2 anni di vita delle mie bambine senza fare nulla, e poi a un certo punto scalpiti, non riesci più a stare solo a casa. Anche perché una mamma soddisfatta, una mamma completa, è una mamma sicuramente migliore. Questa è la chiave, il tempo che dedichi poi ai tuoi figli è un tempo di ottima qualità e non è un tempo di una madre che ha magari delle... insomma delle tristezze, quindi cioè non è soddisfatta, non è bello, dai degli esempi negativi. E così hanno anche capito subito che questo è un lavoro duro e non è... Io sì, gliel'ho raccontato con molta profondità, insomma è molto molto difficile. Anche perché tu sei una guerriera, una lottatrice come la pugilessa del tatuaggio, esatto. La pugilessa del tatuaggio, eccola, in radio non si vede ma c'è. E in questo mestiere, come nella vita del resto, in tutti i settori ci vogliono i guantoni, soprattutto poi per le quote rosa, e noi ne sappiamo qualche cosa, per cui bisogna assolutamente stare sempre in guardia. Però devo dire che il messaggio che hai deciso di dare col titolo è proprio un manifesto. Sì, sì, avevo voglia di essere così molto marketing, se vogliamo, perché era... proprio il lavoro forte che ho fatto su me stessa. Questi 5 anni mi hanno portato tanto in giro per il mondo a fare soprattutto concerti e ho ritrovato l'energia per poter dire ok, mi rimetto i guantoni, mi rimetto in gioco. E quindi però ho dovuto partire da me stessa, quindi ho detto ok, devi farlo adesso, sennò poi non è più il momento, non passa, il treno passa. Ed è tutto per la puntata di Voci in Scena di oggi. Con noi c'era Alexia. L'appuntamento è per lunedì alla stessa ora.